America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da Milano, Mario Platero. Beh, mi trovo a Milano, ve l'ho anticipato questa mattina, sono di passaggio per andare in Israele al seguito del viaggio del presidente Barack Obama che arriverà domani mattina per questa importante, storica visita in Israele, a Ramallah e poi in Giordania. Beh, perché storica? Perché potrebbe cambiare in questa visita l'intera impostazione strategica americana nei confronti del Medio Oriente, per una ragione molto semplice, perché gli Stati Uniti sono e saranno sempre di più indipendenti, autonomi dal punto di vista dell'approvvigionamento energetico. E dunque l'oro nero, che ha sempre giocato un ruolo chiave, un ruolo importante in tutti gli equilibri politici e militari per gli sviluppi medio orientali, potrebbe a questo punto giocare un ruolo chiave per sviluppi inattesi. In realtà non sappiamo ancora se ci saranno delle sorprese da questo viaggio, ma sappiamo che Barack Obama vuole concentrarsi soprattutto sul problema iraniano, vuole convincere Benjamin Netanyahu, il primo ministro israeliano, che gli Stati Uniti possono benissimo occuparsi da soli dell'Iran e che Gerusalemme si deve fidare di Washington. Barack Obama ha dato un contentino a Netanyahu, ha detto che entro un anno l'Iran avrà la bomba atomica e che entro un anno dunque questo problema dovrà essere risolto, o con le buone o con le cattive. Tutte le opzioni, ha detto, restano sul tavolo. Ma prima di continuare a parlare di Medio Oriente vorrei fare una piccola parentesi sulla questione economico-finanziaria, perché gli sviluppi attorno a Cipro e alla crisi dell'Europa continuano a colpire, direi pesantemente, l'opinione pubblica americana. I think there is a sense in which monetary and fiscal policy are working across purposes. Having said that, I want to just be clear that I am not in any way denying the importance of long-run fiscal stability. Ben Bernanke si riunisce oggi con il Comitato Monetario della Federal Reserve. Tutti si aspettano che la Banca Centrale Americana tra oggi e domani confermerà la sua linea accomodante e il sostegno alla politica di acquisto sul mercato pari a circa 85 miliardi di dollari al mese. E ce lo si aspetta questo tanto più in quanto con gli sviluppi attorno a quello che è successo a Cipro, con il negoziato per prelevare dai conti correnti dei ciprioti ingenti quantità di denaro, si parla fino al 10%, hanno creato, devo dire, un'onda quasi di panico a livello europeo. E qual è la posizione americana? La posizione americana è che, diciamolo, Cipro non conta molto. Cipro è piccolissima, quindi queste misure sono del tutto irrilevanti. Ma quel che conta, afferma in particolare il New York Times in un interessante analisi, quel che conta è che l'Europa non riesce davvero a decidere. L'Europa è in conflitto, l'Europa davanti alla crisi non riesce a trovare una posizione armonica per risolvere senza contraccolpi pesanti sui mercati quelli che sono i suoi problemi. E dunque torna alla ribalta la crisi della credibilità del modello europeo. E effettivamente, devo dire, il New York Times ha ragione, perché quello che è stato deciso a Cipro è, preoccupante. Ma ho con me in linea ai microfoni di America 24 Paolo Valentino, che è stato con me corrispondente dagli Stati Uniti del Corriere della Sera e con cui vorrei parlare un po' di Cipro e un po' di Israele. Perché di Cipro? Perché Paolo è stato anche corrispondente dalla Germania. E diciamolo, la Germania ha avuto un ruolo chiave, si dice, nel imporre questa linea durissima sui poveri ciprioti. Buongiorno Paolo. Buongiorno Mario. Allora, tu conosci a fondo la Germania, ma insomma, che dici? La Merkel ha sbagliato, ha toppato, come si direbbe? Sì Mario, in effetti la Germania ha toppato di nuovo. E ha toppato di nuovo per una ragione molto semplice, secondo me. Uno, perché su questa linea la Merkel è stata spinta anche dai socialdemocratici, ma anche e soprattutto perché siamo in un anno elettorale e quindi nessuno, né la Merkel né la socialdemocrazia, si possono permettere il lusso di una linea più morbida nei confronti dei paesi debitori. Ecco, ma l'Europa ce la farà con questa Germania o no? La risposta è sulle ginocchia degli dèi. Questa Germania è destinata a continuare a dettar legge e io ho dubbi che l'Europa possa smuovere la Germania da questa linea attuale. Passiamo a Barack Obama. Ce la farà in Palestina, in Israele, in Giordania? Paolo, noi abbiamo seguito Obama durante lo storico discorso al Cairo, all'Università del Cairo. Da lì si è aperta così un'era rivoluzionaria, ci sono state le primavere arabe e Obama non era mai stato in Israele, un viaggio storico, sia perché è la prima volta che Obama si reca in Israele, comunque in Medio Oriente, sia perché, come dicevo prima e come forse hai sentito, sono cambiati molti elementi geopolitici. Ecco, ce la farà Obama o no? Non credo, perché sono cambiati molti elementi geopolitici, ma per quanto riguarda Israele e Palestina sono cambiati in peggio. La situazione si è indurita, le due parti sono ancora più straniate. E non a caso la Casa Bianca ha abbassato assolutamente il livello delle aspettative, cioè è chiaro che il messaggio è: non vi aspettate nessun passo in avanti. Direi che però il viaggio di Obama in Israele ha un elemento simbolico importante, quello di ricostruire un clima di fiducia, e vorrei citare qui un piccolo episodio, cioè il fatto che del protocollo del programma, cioè che Obama dopodomani andrà a visitare, a vedere al museo israeliano i manoscritti del Mar Morto, che sono la testimonianza di una presenza millenaria biblica degli ebrei in Palestina. Bene, questo è un atto un po' di riparazione molto apprezzato dagli israeliani, perché nel famoso discorso del Cairo ad Al-Azhar Obama dimenticò, non si capisce per quale ragione, di parlare anche della presenza millenaria degli ebrei in Palestina. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguitemi su Twitter, @MarioPlatero, scriveteci su Facebook. Ed eccoci alla canzone del giorno. Eric Clapton ha inaugurato il suo tour mondiale per celebrare ben 50 anni di carriera. È partito dal Nord America, farà due tappe a New York il 12 e il 13 aprile e finirà in Europa. E dedichiamo a lui la canzone del giorno, Laila. Da Milano è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going!